Tutto chiaro? Mettiti alla prova. A. Ascolta il brano. La ninfa nera si innamorò di un pastore, Velino. Secondo la legge degli dei, una ninfa non poteva amare un mortale. Un'ancella della ninfa, gelosa di Nera, rivelò alla dea Giunone che Nera si era innamorata di un pastore di nome Velino e che i due amanti si incontravano segretamente. A quel racconto la regina degli dei diventò furiosa e trasformò Nera in un fiume. La grande sofferenza di Velino lo portò a desiderare la morte. Velino si lanciò da un'alta rupe verso il fiume che era diventata la ninfa Nera. La dea Feronia, commossa da un amore così grande, mutò anche Velino in un fiume. Il salto di Velino diventò la cascata delle marmore e i due amanti così si ricongiunsero in eterno.